Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sai. E ci siamo anche quest'anno. Intanto buongiorno da Nicoletta Carbone. Siamo pronti a trascorrere la notte prima degli esami di maturità. Domani mattina, infatti, scatta per i 500.000 studenti italiani la prima prova e torna anche la notte prima degli esami in diretta alle 21 con i maturandi, posso dire, di ieri e di oggi, con Federico Taddia e la cantante musicista e attrice Marianne Mirage, che sentiranno come ogni anno le voci degli studenti ma anche quelle degli ascoltatori. E siamo tutti invitati a ricordare il nostro esame, e poi ci sarà anche una giostra di personaggi famosi chiamati proprio a dare il loro personale in bocca al lupo ai ragazzi che domani affronteranno la prima prova. E anche noi naturalmente accompagniamo i maturandi, abbiamo fatto una sorta di così passaggio di avvicinamento in questo ultimo periodo, e lo facciamo in stile Cuore e Denari. Ci ha raggiunto infatti Daniele Grassucci, cofondatore responsabile della comunicazione di scuola.net. Buongiorno Daniele. Buongiorno Nicoletta, buongiorno soprattutto ai maturandi che stanno all'ascolto, o ai genitori di maturandi. Bravo, insomma. Perché anche i genitori di maturandi, noi ci abbiamo lavorato anche con il nostro mental coach che tra poco ci raggiungerà, ma ridanno l'esame. Senti, com'è andato il tuo esame di maturità? Ma guarda, il mio esame di maturità è stato abbastanza tranquillo, perché noi siamo stati quella specie in via d'estinzione che ha avuto per qualche anno una commissione tutta composta da membri interni. Ecco, belli fortunelli. Quindi, sì, guarda, è stata una di quelle cose, uno di quei regali di quel governo, è durata pochi anni. È stato breve ma intenso, è stato bello finché è durato, perché veramente ti permetteva di essere molto più tranquillo all'esame. Però comunque la paura c'è stata, perché è pur sempre un esame, insomma, il primo vero esame della vita. Però ecco, devo dire che i ragazzi di oggi sicuramente hanno molta più paura. Infatti una delle paure più diffuse è proprio quella, appunto, del commissario esterno. Tu dici hanno più paura? Che aria si respira secondo te in vista di questa maturità 2017? Immagino ci sia già anche il toto prima prova con le previsioni, i pronostici per le tracce della prova di italiano. Assolutamente sì. Uscirà sempre, no, il compagno che ti dice ce l'ho, e allora lì tutti a buttarsi a vedere, no, le notizie su un autore, a cercare di recuperare delle informazioni. Infatti, prima cosa, ed è anche una cosa che noi sottolineiamo insieme alla Polizia di Stato da anni, noi facciamo questa campagna maturità al sicuro, ecco, a credere a chi dice di possedere le tracce in anticipo prima dell'esame di maturità. Nessuno le conosce se non la ministra e il team che ha lavorato alle tracce. Io ho parlato anche col capo del MIUR, nemmeno lei le quindi conosce. Ragazzi, non credete, c'è una bufala, in tempi non sospetti ci siamo caduti anche noi, no, stavolta, ecco, nessuno le sa. Assolutamente sì, anche perché poi se si scoprissero l'esame verrebbe annullato. C'è una storia. C'è stato un anno in cui, bravo, l'hanno annullato, perché mi sembra una suora avesse aperto. Sì, c'è stato uno scherzo telefonico, sì. Quindi questa suora improvvisamente ha aperto il plico, però poi ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Al tempo c'era ancora il plico cartaceo, oggi c'è il plico telematico, quindi in realtà si sblocca attraverso delle password che vengono date dal ministero. Sembra un po' tipo la lotteria, alle 8:30 il ministro fa l'annuncio, arriva questo codice, via, si parte. Quindi questo, diciamo, è quello che accade oggi. Però il totosame c'è, e ci sono anche degli autori favoriti alla vigilia, chissà se domani poi saranno tali. I favoriti, dai, diciamolo così, allora, i genitori prendono appunto. Ho sentito a Radio 24 che Daniele, però ecco, esame, quindi è una previsione, non è certezza. Ecco. Allora, Pirandello perché? È molti anni che non esce, che non viene proposto dal 2003, ricorrono quest'anno i 150 anni dalla sua nascita, quindi questo ne fa il numero uno. Poi da due grandi classici, ovvero Montale e Ungaretti, che insomma sono sì. Senti Daniele, proprio nel momento in cui tu ci devi dare quelli che sono i possibili favoriti, noi non ti sentiamo tanto bene, chiedo a Marco Lombardo che è in regia di recuperare, di richiamarti, e intanto io vorrei sapere, il nostro mental coach, che naturalmente abbiamo invitato anche per il giorno prima degli esami, Giovanni Gabrielli, Eccolo qua. Ciao Giovanni. Ecco, speriamo che... Un saluto a tutti i maturandi e maturande. Allora Giovanni, tu sai che il giorno prima dell'esame ognuno se la gioca, c'è chi si butta sui libri e ripassa tutto, chi dice quel che so ormai lo so, e chi invece ha quell'atteggiamento un po' così, sai, sente l'amico, magari le giucchia qualcosa, si distrae, poi torna un po' sui libri, si fa venire un po' l'ansia, poi esce con l'amico, insomma, secondo te che cosa potremmo suggerire a chi ci sta ascoltando? Come preparare bene l'esame? Ecco, L'esame si prepara bene, Nicoletta, non l'ultimo giorno prima dell'esame. Quindi il lavoro è già stato fatto. Oggi deve essere un giorno di scarico mentale, un po' di riprendersi un po' gli propri spazi, entrare in contatto con il proprio essere, con quello che vogliamo fare domani, cominciare a decidere già un po' dove poter orientarsi, se ci vogliamo orientare sul saggio breve, sull'articolo, sul tema di attualità, sull'analisi del testo o sul tema storico. Questo è già un qualcosa che secondo me dovrebbe essere fatto precedentemente, non arrivare lì e decidere all'ultimo minuto, magari in base alla cosa che si sa un pochino di più. Quindi fare attenzione a questo, però volevo dare due numeri che secondo me possono essere molto utili, Nicoletta, per far abbassare l'ansia ai nostri maturandi e alle nostre maturande. L'anno scorso ci sono stati 503.000 iscritti all'esame. La percentuale di chi ha superato la prova è stata di 500.900, che equivale al 99,5%. Su 500.000 studenti che hanno affrontato l'esame, 2.100 sono stati respinti e probabilmente quei 2.100 che sono stati respinti se lo potevano già comunque immaginare. Quindi io potrei dire e vorrei dire, è molto più facile passare l'esame che farsi bocciare. Quindi state tranquilli. È solo, per molti, una questione di voto. Però tenete presente questo: sopravviverete all'esame. L'esame non è un qualcosa di determinante. La cosa più brutta che potrebbe succedere è quella di vedersi assegnare un voto più basso di quello che noi ci saremmo aspettati, ecco, di quello che avevamo ma previsto. Noi non siamo il voto, certo, ma noi non siamo il voto, voilà. E quindi non è importante questo. Ricordatevi una cosa, ragazzi: il voto dell'esame non avrà impatto sul vostro futuro, né universitario né professionale. Quindi l'impatto sul futuro l'avranno le cose che avete imparato, e cioè i vostri obiettivi, i vostri metodi di lavoro, la vostra disciplina, l'orientamento. Queste sono le cose che vi porterete dietro, non il voto. Quindi mirate alla vostra prestazione. E poi vorrei dire una cosa a quei 2.100 che magari non ce la faranno. Non è la fine di tutto essere respinti, anzi molto spesso è l'inizio di un qualcosa di migliorativo. L'importante è l'errore, l'esame non superato diventa fallimento quando noi non impariamo da questo. Ma se siamo respinti e ci facciamo un bel esame, vediamo cosa non è andato, che cosa abbiamo imparato, che cosa potremo fare per superarlo il prossimo anno, allora l'esame non sarà stato un fallimento, sarà stato un feedback e un momento di crescita. E quindi tutto serve, non si perdono gli anni. Questo è un detto popolare che io trovo anche molto stupido. Molto saggio però, non si perdono gli anni. Non si perdono. Daniele, ti abbiamo recuperato, fammi sentire come va. Eccomi qua, d'accordissimo adesso con quello che è stato detto, lo sottoscrivo proprio al 1000 per 1000. Guarda, sareste una bella coppia insieme, tu e Giovanni Gabrielli, perché La pensiamo in maniera simile su tante cose, quindi ottimi consigli, ragazzi, seguiteli alla lettera. Allora, Daniele, intanto Giovanni resta con noi, perché poi quando ci sediamo lì davanti al foglio, la paura del foglio bianco, di non essere capaci, può arrivare. Quindi Giovanni Gabriele ha preparato anche per i nostri ragazzi dei consigli molto efficaci, ma Daniele, passiamo anche un po' agli argomenti più legati ai denari, perché anche la maturità ha un costo per le famiglie. Voi di scuola.net avete provato un po' a fare qualche calcolo. Quali sono le voci di spesa per sostenere un esame di Stato? Quanto si spende in media? Allora, si spende, dipende un po' chiaramente dal tipo di esigenza, però noi sempre abbiamo visto che la spesa totale per le famiglie sarà intorno ai 54 milioni di euro, e la buona parte, 30 milioni, avverrà per le ripetizioni, e chi andrà a ripetizioni spenderà mediamente pro capite 220 euro. E noi non dobbiamo pensare che a ripetizioni vadano solo quelli che hanno concluso il primo quadrimestre con debiti, quindi con delle insufficienze. Sì. Cioè, sicuramente per loro è quasi una scelta obbligata, però non mancano coloro che, pur non avendo avuto dei debiti, si affidano alle ripetizioni. Ci sono essenzialmente due motivi. Aspetta, li diciamo dopo le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme, maturandi e genitori di maturandi, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per chiedere consigli, insomma per passare un po' di tempo con noi il giorno prima della grande prova. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e Denari. Niente paura. Niente paura, un po' di paura c'è. Quando l'abbiamo provata anche noi, quando ci siamo seduti e abbiamo iniziato la nostra maturità, gli scritti, poi l'attesa, le preparazioni per l'orale. Ne stiamo parlando con Daniele Grassucci di scuola.net, con Giovanni Gabrielli, il nostro mental coach. Abbiamo qualche problema di linea con Daniele Grassucci, ma Giovanni Gabrielli, no, adesso è ritornato. Daniele? Eccomi qua. Oggi, ecco, oggi se fosse la maturità già ci bocciano, a me e a te con questo andare, ci direbbero stia lì bello seduto e parli forte e chiaro. Allora, Daniele, eravamo rimasti agli esami, ma soprattutto alle ripetizioni. Non fanno i corsi di ripetizione, lezioni di ripetizioni solo i ragazzi che sono stati rimandati o hanno qualche materia, ma c'è chi si rivolge al professore per ricevere un po' un supporto, per rinsaldare magari la sua preparazione. Sì, perché dobbiamo anche pensare che a causa del precariato in molte scuole quella che è la cosiddetta continuità didattica si va un po' a farsi benedire, cioè, quindi capita che magari uno studente che per 3 anni dovrebbe avere lo stesso docente lo cambia ogni anno, per cui questo porta poi a dei deficit alla fine del percorso, e quindi i ragazzi, per sentirsi più sicuri, perché poi le prove ministeriali sono operate su uno standard, cercano di rinforzare la preparazione. Infatti, ecco, uno dei motivi principali per cui si va a ripetizione è proprio la paura di non essere preparato sufficientemente, oltre chiaramente che questa, diciamo, mancanza di preparazione sia dovuta a carenze personali, ma quasi altrettanti invece danno la colpa alla scuola, e poi ci sono quelli che vorrebbero un voto più alto, quindi insomma tra carenze proprie, carenze della scuola e desiderio di ambire a voti più elevati, ecco, alla fine la ripetizione diventa un qualcosa di molto diffuso, ecco, più diffuso di quanto si pensi. Per alcuni è un po' una stampella. Giovanni Gabrielli, si cerca quella sicurezza che non si è riusciti a raggiungere con lo studio, con un tipo di studio. Giovanni? Adesso Giovanni Gabrielli. Okay. No, Giovanni Gabrielli? Che, sì, ci sono. Che diretta mi fate fare oggi? Aiutatemi voi. 800 24 00 24, se ci sono gli ascoltatori, tra poco entrerà, ho visto che mi segnalano la telefonata di un ragazzo. Giovanni, sì. Ripetizioni per acquisire sicurezza anche? Sì, per acquisire sicurezza o per tacitare una bassa autoefficacia, una bassa autostima. Quindi è sempre Bisogna scegliere molto bene a chi ci si affida per le ripetizioni, perché bisogna affidarsi a persone che non solo conoscono la materia, ma che abbiano un metodo di porre questa materia al ragazzo, perché non è un insegnamento la ripetizione, è veramente un percorso di affiancamento, di andare a lavorare sulle aree deboli del ragazzo, quindi bisogna sapere il fatto di chi fa queste ripetizioni e non improvvisarsi. Allora, intanto mi arrivano i vostri ricordi al 349-238-6666, anche via WhatsApp, via messaggio. Stefano ci scrive: correva a luglio 74. Mi comprai una lussuosa Lacoste blu, andai a dormire presto, sereno. La notte e il risveglio tranquilli, voilà, che ricordi. Allora, intanto abbiamo Sabino in linea con noi. Sabino, buongiorno. Eh sì, salve, salve signori tutti. Scusi, io ho 21 anni, 68 nel mio diploma di tecnico commerciale ed ho perso a causa della mia leggerezza 4 concorsi. Ora, questo per dire cosa? Che non è assolutamente vero che non segna la vita professionale, non è assolutamente vero che il voto del diploma non è importante. Io ho perso 4 concorsi, a partire viaggiando dalle poste italiane, forze armate, forze di polizia, il mio voto era troppo basso. Quindi è importantissimo, forse il voto del diploma è l'unico che ti segna vita, non lo puoi riprendere come un esame di università. Allora, Sabino sottolinea l'importanza del voto. Giovanni, tu hai detto il voto non è così importante. Io penso sottolineando un altro aspetto del voto, ma che cosa puoi rispondere a Sabino? Che quando dico che non è importante, intendo che come tutti i risultati, e questo viene dalla mia esperienza nello sport, il voto è qualcosa che non possiamo determinare, perché comunque c'è sempre una percentuale di soggettività data dai membri della commissione. Quindi è importante focalizzarsi non tanto sull'aspettativa di un voto, ma sulla prestazione che noi vogliamo fare. Questa è la cosa importante. Poi è chiaro che in alcune situazioni il voto diventa importante. Ma ci dobbiamo focalizzare sulla prestazione, cosa vogliamo realizzare, perché altrimenti rischiamo di farci poi delle aspettative che ci possono deludere. Questo è quello che volevo dire. L'importante per un atleta non è decidere di vincere, perché un atleta non può mai decidere di vincere, ma è importante voler vincere, e voler vincere come? Attraverso una prestazione coi fiocchi. Io dico: non focalizzatevi sulla votazione, focalizzatevi sulla vostra prestazione. Se fate una prestazione buona, verrà poi il voto, che sarà una conseguenza. Grazie a Giovanni Gabrielli. Sabino, è ancora in linea con noi? No? Ecco, ma perché qua? Allora, ragazzi miei, oggi cadono tutte le linee. Sarà l'esame di maturità? Saranno preoccupati per gli esami? Allora, Daniele, raccomandazioni, inviti per i maturandi da scuola.net. Allora, prima cosa, domani portate il documento d'identità, è un esame di Stato, quindi dovete essere identificati. Pensa che 1 su 7 non sa che è necessario presentarsi con un documento. Poi, seconda cosa, cosa si può portare domani? Si può portare un dizionario di italiano, un dizionario dei sinonimi e contrari, si possono portare chiaramente acqua, cibi, insomma tutto quello che serve, insomma, per fare uno spuntino, perché la prova dura 6 ore. Però, ecco, cosa importante, non si possono portare i fogli protocollo da casa, si possono utilizzare solo i fogli protocollo che vengono dati dalla commissione, quindi anche timbrati, mi raccomando ragazzi. E poi, ecco, cosa importante, se si viene sorpresi a copiare, ecco, si rischia l'esclusione dall'esame, quindi occhio. Mi raccomando, altre raccomandazioni da Giovanni Gabrielli per chiudere in un minutino? Sì, guarda, mi sono fatto alcuni appunti, perché la prima prova è molto importante, perché da poi l'abbrivio per il resto. Quindi alzatevi con largo anticipo, sì. Non alzatevi all'ultimo minuto, fate le cose con calma, fate una buona colazione. Vi consiglio almeno l'ultimo chilometro verso la scuola, fatelo a piedi da soli, possibilmente, in modo che cominciate a entrare un po' entro voi stessi, decidete un po' la vostra strategia, voi potete fare qualche esercizio di respirazione per calmarvi, eccetera. Quando siete dentro, vestitevi prima di tutto in maniera comoda, confortevole, perché non è tanto importante l'eleganza, è importante la comodità. La comodità. E magari mettetevi o un accessorio o un capo d'abbigliamento che vi dia delle sensazioni positive, che magari sia legato a un successo che voi avete ottenuto. Dai, un po' scaramantico. Allora, voglio salutare Pietro che ci chiama dalla provincia di Torino. Pietro? Sono qua. Allora, che ti traghetterò, perché ti ho individuato un compagno di classe di mia sorella dell'anno della suora. Giusto? 1976. Allora, Pietro è dalla provincia di Torino, torna con noi dopo il GR, a tra poco. Cuore e denari. Eccomi, sono tornata, oggi Deborah non c'è, tornerà domani, non mancheranno comunque i temi di denari, parleremo di pensioni, ci sono delle buone novità in arrivo, ma abbiamo raccolto il vostro invito a raccontarci il vostro ricordo di maturità. E in linea con noi abbiamo Pietro dalla provincia di Torino. Pietro, sei tu il compagno della Simo, di mia sorella, l'anno, certo, l'anno della matura annullata. 1976. Com'era andata? Io me la ricordo bene. Sapevamo tutti i temi quando siamo arrivati la mattina davanti al Dazeglio, e ci hanno rimandato a casa perché si erano accorti che era successa la fuga di notizie, per cui non abbiamo fatto il tema, abbiamo fatto la versione, una paura pazzesca per tutto il tempo della maturità, che poi si è rivelata in realtà stupidissima, cioè facile, quindi... E noi avevamo la commissione esterna con un membro interno, per cui... Quindi la maturità vera, Pietro. Sì, la vera maturità. Comunque... Tua sorella molto di più. Vabbè, insomma, Carbone. Senti, comunque Pietro, e lo dico a Pietro e a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto dicendo anch'io era l'anno della suora. Un ascoltatore ci scrive: ero al Socrate di Roma, si iniziò il 2 luglio con latino perché il tema previsto per l'uno fu rimandato, un incubo. E molti ci raccontano questa maturità che è stata rimandata ed è stata vissuta dai maturandi con grande ansia, grande stress. Pietro, però ce l'avete fatta. L'abbiamo fatta tranquillamente. Una volta che è fatta si ricorda con piacere. Su WhatsApp arrivano tantissimi messaggi, qualcuno mi ha mandato addirittura la foto della classe. Pietro, grazie, un consiglio quindi ai genitori o ai ragazzi, chi scegli? Di non preoccuparsi troppo. Va bene, però di studiare. Vabbè, quello sempre. Allora, va bene, vedi, diventando grandi si diventa anche saggi. Un abbraccio a Pietro dalla provincia di Torino, e andiamo invece a Marco che ci chiama da Verona. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco, a lei dovrei dirle professore, perché dalla regia mi dico dovrei darle del lei, quindi... Beh, insomma, possiamo bypassare questo passaggio. Insomma. Allora... Forse un aiuto arriva proprio da Marco da Verona, perché dalla regia mi segnalano che è un professore, vuole dare consigli per svolgere in maniera chiara la prova. Siamo tutto orecchi. Beh, allora, la prima prova d'italiano chiaramente, al di là dell'analisi del testo, che presuppone delle competenze importanti e un impegno costante durante l'anno, diciamo, c'è la tipologia B che diventa fondamentale, cioè l'articolo di giornale oppure il saggio breve. Io il consiglio generale che cerco di dare sempre anche ai miei studenti è proprio quello di utilizzare i testi, leggerli con attenzione, perché la nostra impostazione scolastica e universitaria ci considera dei nani sulle spalle dei giganti, e questo significa che noi dobbiamo fondare il nostro pensiero, quello che vogliamo scrivere, sui documenti, su persone che hanno scritto sullo stesso argomento. Ok, e quindi? Ecco, e quindi leggere con molta attenzione i documenti, citarli in maniera chiara. Bravo, sì. E al di là di questo, poi dopo, la differenza fra le due tipologie è sostanzialmente che l'articolo di giornale presuppone un ancoraggio più importante all'attualità. Quindi lei la consiglia ai ragazzi che sono dei buoni lettori di quotidiani e comunque non solamente di quotidiani, ma si informano su internet, tengono un po' l'attualità sotto mano, ecco. Esatto, che siano in grado di dare un loro pensiero su quello che accade nel mondo contemporaneo, anche e soprattutto in riferimento, insomma, sì. Il 2017 è stato un anno importante a livello internazionale per i temi politici e quant'altro. Mentre per gli altri, per una persona, per un ragazzo che non è tanto ferrato in italiano, che fa il temino sempre un po' striminzito, che sente di non avere idee, insomma, che ogni tema è un parto, che cosa quale traccia suggerisce lei? Certo, beh, allora innanzitutto c'è quella che io chiamo scherzosamente la traccia di emergenza, sì? Nel senso che il tema di ordine generale è chiaramente la tipologia più simile a tutti i temi argomentativi che vengono fatti soprattutto nei primi anni di scuola. Però sono anche convinto che il saggio breve, anche se richiede sicuramente un lessico un po' più tecnico, sì, un po' più pensato, può comunque dare la possibilità al ragazzo di esprimersi, insomma. Quindi lei suggerisce quello, Marco, il saggio breve, le piace? Dipende comunque anche dai titoli che vengono dati. Va bene, secondo lei che cosa si aspetta, Marco? Io secondo me... Allora, sul discorso dell'attualità, a mio modesto avviso si parlerà sicuramente della questione internazionale, insomma, voglio dire, l'elezione, sì, di Donald Trump. Potrebbe essere. La Brexit, insomma, cose... Quindi ragazzi, andate su quella direzione lì. E invece, esatto, autori? Pirandello lo dà per buono? Pirandello effettivamente è un jolly, perché bisogna conoscerlo alla perfezione. Pirandello è difficile, eh? È difficile, è variegato. Posso dirlo adesso che è difficile, intanto non mi boccia più, poi siamo lontani. Marco, grazie per essere intervenuto, buona giornata. Grazie, buona giornata, in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Grazie, noi facciamo un balzo in avanti. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Non manca molto a luglio, e chi deve sostenere l'esame di maturità nel mese di luglio potrà finalmente dire: ho finita, me la sono tolta. Ma anche molti altri aspettano questo mese, che porterà le prime settimane di vacanza, un po' di relax. Se chiudiamo gli occhi già ci immaginiamo le spiagge, il mare di luglio, le giornate sono ancora lunghe, non c'è tanta gente, insomma, una bellezza. Comunque, non solo questo, ma qualcuno potrebbe attendere il mese di luglio per ragioni un po' meno di cuore, un po' meno romantiche, più legate ai denari, e parlo dei pensionati. Questo perché con il prossimo mese potrebbero esserci degli assegni un po' più ricchi. Con la mensilità di luglio verrà infatti corrisposta la 14esima. Quest'anno a percepirla saranno tante persone, circa 1,4 milioni di pensionati in più, beneficiando delle nuove norme introdotte con la legge di bilancio 2017. Di tutto questo parliamo con un grande amico della nostra trasmissione, Andrea Carbone, partner di Progetica. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. L'esame di maturità è andato bene? Sì, se lo ricorda. Sì, se lo ricorda con un po' di ansia, oppure è stata una passeggiata? Un consiglio anche da lei? Ma serenità d'animo, quello me lo ricordo. Faceva molto caldo, quindi equilibrio con se stessi, acqua, chiacchierare prima dell'inizio con gli altri, insomma, cercare per scaricare un po' di ansia. Un bel ricordo. Un bel ricordo. Allora. Sì. Facciamo un balzo in avanti dalla maturità alle pensioni. Si sì, parla di pensioni, notizia. Ecco, più ricche per il prossimo mese di luglio. Cerchiamo di capire chi riguarda questa, che ha tutta l'aspetto di una buona notizia. Stiamo parlando, come anticipato, della 14esima. Ma tutti i pensionati la percepiscono? Allora, è una buona notizia, ma non riguarda tutti, nel ecco, senso che fino ad oggi la 14esima già esisteva, ma riguardava solo alcuni pensionati, circa un 2 milioni e 100 mila, quindi chi l'ha ricevuta l'anno scorso lo sa bene, sì, e già appunto a luglio l'ha percepita. La buona notizia è che ci sono 1.430.000 pensionati in più che quest'anno ne avranno diritto. Bene, allora, però prima aiutiamo i nostri ascoltatori a capire meglio che cos'è la quattordicesima, quanto vale, in quale periodo dell'anno viene accreditata? Esatto, allora è luglio. Una mensilità extra che viene accreditata in aggiunta alla normale pensione nel corso del mese di luglio. Sì. È una pensione extra che ha un valore variabile che è legato a quanti anni di contribuzione si hanno alle spalle. Sì. E per dare un'idea, nel 2016 aveva un valore compreso tra i 336 euro e i 504 euro. L'anno scorso l'hanno percepita chi? Tutti i pensionati che avevano almeno 64 anni di età e un valore della pensione di circa 9.800 euro annui. 750 euro al mese, tecnicamente è una volta e mezzo il trattamento minimo, ma stiamo parlando di queste cifre. Ma quest'anno chi sono i fortunati, possiamo chiamarli così, insomma, chi sono i pensionati interessati da questa novità? Allora, i pensionati interessati fortunati sono sempre coloro che hanno almeno 64 anni. La novità è che si è alzata la soglia di pensione, quindi anche coloro che hanno una pensione compresa tra una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo, cioè una pensione compresa tra circa 10.000 euro annui e 13.000 euro annui, quindi 1.000 euro al mese con la tredicesima, ecco, anche queste persone sono... Compare la quattordicesima. Esatto. Fantastico. Che varrà tra i 336 euro e i 504 euro a seconda del numero di anni di contribuzione. Per altri c'è comunque un aumento? Sì, la buona notizia è doppia, perché chi già l'anno scorso l'aveva percepita, quest'anno continuerà a riceverla e avrà un aumento di circa il 30% rispetto al valore dell'anno scorso, quindi in euro stiamo parlando di circa 100-150 euro in più. Per dare il totale stiamo parlando di un extra compreso tra i 437 e i 655 euro a seconda sempre del numero di anni di contribuzione. Carbone, lei che è brava a fare i calcoli. Ecco, proviamo a fare un po' di calcoli e ci aiuti a capire come viene individuato il valore della quattordicesima e per chi la vedrà crescere da quest'anno del suo aumento. Allora, facciamo un esempio. Sì. Diciamo che la nostra pensione è fino a 750 euro al mese circa. Sì. Sono stato un dipendente e ho lavorato solo fino a 15 anni di contribuzione. Sì. In questo caso l'extra è di 437 euro. Se invece ho lavorato per più di 25 anni, il bonus sale a 655 euro. Per chi è nel mezzo, che ad esempio ha lavorato tra i 15 e i 25 anni, quindi bisogna solo verificare quanti anni di contribuzione si hanno alle spalle, l'assegno diventa di 546 euro, una via di mezzo. Questo per i lavoratori dipendenti. Per gli autonomi, gli ammontari, i valori sono gli stessi. Cambia il numero minimo di anni di contribuzione, 18 per gli autonomi per avere almeno 437 euro e via discorrendo. Però insomma, queste sono le grandezze. Allora, Andrea Carbone, facciamo un bel riepilogo. I nostri ragazzi stanno facendo i ripassi in vista della prima prova. Noi facciamo un riepilogo per i pensionati all'ascolto. Chi si deve aspettare la quattordicesima nel mese di luglio? Come lo verifica? Oltre all'entità dell'assegno verrà indicato, comunicato anche in modo preciso? Sì, allora. Diciamo che la verifica è prima di tutto di essere pensionati dell'INPS. Okay. Perché è una misura che riguarda l'INPS. Raggiungere i 64 anni di età entro il 31 luglio di quest'anno. Sì. E avere una pensione non superiore a due volte il trattamento minimo, quindi circa 13.000 euro all'anno. Se si soddisfano questi requisiti non bisogna fare nulla, nel senso che la quattordicesima sarà d'ufficio e automaticamente aggiunta nella pensione di luglio. L'INPS chiarisce che per chi invece matura i 64 anni, chi compie i 64 anni dal primo di agosto, l'ammontare sarà liquidato nella rata di dicembre. Queste sono un po' le regole. Queste sono le regole, ma se qualcuno si riconosce in questi requisiti, ma non trova questa quattordicesima nella pensione di luglio, a chi deve rivolgersi? Deve rivolgersi a chi lo possa aiutare a verificare il rispetto di questi requisiti, quindi in primo luogo l'INPS stessa, col sì. call center o in una sede fisica, oppure un patronato, un educatore previdenziale, diciamo tutti coloro che possono aiutare a verificare la propria storia lavorativa e quindi previdenziale per vedere se se ne ha diritto. Allora, sembra una buona notizia, ma c'è anche il rovescio della medaglia, c'è sempre, ci sarà anche in questo caso, Carbone? Sì, evidentemente è una misura che, come chiarisce l'INPS stessa, ha un costo, in quanto stiamo parlando di un bonus, di un extra che è erogato a soggetti già pensionati, che quindi evidentemente non possono coprire attraverso contributi questi denari compresi nella quattordicesima, e per diciamo erogare la quattordicesima complessivamente 3 milioni e mezzo di pensionati si ha un costo per il 2017 di 1,7 miliardi di euro, cioè 870 milioni in più dell'anno scorso. Naturalmente è un costo che è a carico della collettività. Certo. E quindi diciamo risponde questa iniziativa a una scelta di come usare le risorse pubbliche, in questo caso a favore dei pensionati. Allora, ringrazio e saluto Andrea Carbone, ci sentiremo presto, la inviteremo a venirci a trovare qua negli nostri studi appena tornerà Debora, cioè da domani in avanti può Perfetto. Partire una telefonata. Grazie a voi e buona maturità a tutti. Grazie. Sì, ricordo che stasera ci sarà la notte prima degli esami alle 21, perché continuano ad arrivare, sono molto contenta, vi ringrazio, i ricordi della maturità. Ma adesso noi cambiamo argomento, tiriamo un sospiro di sollievo. Tutti sanno che chi non respira è morto. Pochi hanno capito che più si respira, più si è vivi. Alexander Lowen. Psichiatra, aggiungo io, vissuto nel secolo scorso, un messaggio straordinario, no? Nella sua semplicità, perché tutte le culture, lo sappiamo bene, hanno visto nel respiro il processo vitale per eccellenza, il respiro è vita. È nutrimento per il nostro corpo, lo sappiamo bene, e sappiamo anche che il respiro accompagna e racconta le nostre emozioni, ce ne accorgiamo quando siamo arrabbiati, abbiamo paura, siamo felici, anche nel linguaggio comune il legame è ben descritto con frasi tipo ho il fiato sospeso, tiro un sospiro di sollievo, mi sento soffocare. Allora, vi è mai capitato di dirlo o di provare quello che questi modi di dire raccontano? Allora raccontatecelo a 800 24 00 24, al nostro numero verde, perché se avere consapevolezza del proprio respiro, l'ho letto in un libro del maestro Zen Thich Nhat Hanh, significa essere padroni di se stessi, dobbiamo anche essere consapevoli che questa affascinante, perché scopriremo quanto è affascinante, processo vitale vada protetto e tutelato, perché si può compromettere. E quindi oggi portiamo l'attenzione sul nostro respiro e lo facciamo con una grande esperta che è tornata a trovarci, la professoressa Francesca Puggioni, pneumologa del Centro di Medicina Personalizzata Asma e Allergie di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie. Allora, professoressa Puggioni, non dobbiamo ricordarci di respirare, si respira infatti in modo automatico, senza accorgersene quasi, ma è anche vero che noi possiamo trattenere il respiro, cambiare il ritmo, cosa che ad esempio non possiamo fare con il battito cardiaco. Questo, professoressa Puggioni, già ci fa riflettere sul fatto che la respirazione è una funzione molto particolare, perché è autonoma, ma al tempo stesso è controllabile. Immagino ci sarà una ragione. Sì, c'è una ragione, perché senza respiro noi non riusciamo a far funzionare tutti gli organi, quindi grazie al nostro sistema neurologico abbiamo il ritmo dentro di noi per poter respirare senza pensare di dover respirare. Allo stesso tempo, almeno ci tolgono questo pensiero, no? Sì, in realtà ci sono tante malattie in cui in realtà noi dobbiamo pensare a come respirare, imparare a respirare di nuovo. Non è semplice, ma è fattibile, e lo possiamo fare attraverso essenzialmente la muscolatura e un approccio un po' dolce, un po' delicato verso la nostra psiche. Quindi renderci conto che quando respiriamo male può dipendere dal nostro stato emotivo o da un nostro problema fisico, ad esempio l'obesità, o dal fatto che stiamo facendo uno sforzo, o dal fatto che abbiamo una conformazione particolare, quindi ci possiamo aiutare magari con determinati tipi di ginnastica, di esercizio fisico, di sport in particolari, è fondamentale per poter ricevere la vita e continuare a dare vita al nostro organismo. Ecco, perché il respiro è un trade union, parla alle due dimensioni del nostro corpo. corpo, soma e psiche, quindi possono, sì, si modifica e accompagna un po' le nostre emozioni, ma può anche a sua volta essere modificato da alcune condizioni. Noi comunque respiriamo continuamente, ma come? Io credo che sia difficile valutare la qualità del proprio respiro, professoressa Puggioni, perché immagino che proprio un po' come succede con alcuni disturbi della vista, dell'udito, ci si adatti, perché insomma inconsapevolmente si fa di necessità virtù. Allora, lei potrebbe aiutarci a prendere consapevolezza? Sarebbe una bella cosa, no? Perché noi stiamo seduti, stiamo parlando del respiro, è fluido tutto qui, oppure c'è qualche altro elemento da considerare? Come facciamo a capire se respiriamo bene? Allora, innanzitutto c'è una sensazione di malessere che può essere molto lieve, imprecisata, un lieve stato d'ansia, una fatica nel parlare e prendere il respiro frequentemente. Una persona, ad esempio, che fa il vostro lavoro deve essere molto brava nel riuscire a prendere il fiato nel momento giusto per non interrompere l'eloquio e quindi avere una performance radiofonica buona senza però soffocare. Ci sono delle semplici basi che si possono imparare, e cioè come funziona il respiro. Mettersi davanti allo specchio nudi, in modo tale da vedere il torace, e vedere come si respira con la pancia e come si respira con il torace. Quindi noi vedremo la pancia che si abbassa e si alza per far muovere il diaframma, che è, chiamiamola così, una lamina che passa attraverso il nostro corpo e ci permette di abbassare o di alzare i nostri polmoni per farli espandere o per buttare fuori l'aria. E poi come le costole, la cassa toracica si deve aprire verso l'esterno, quasi a esporre il cuore in un certo senso, per riuscire al polmone di espandersi. Ovviamente se abbiamo problemi di peso, di sovrappeso, quindi un po' di pancetta, un po' o tanta, faremo fatica. Questo meccanismo farà più fatica. Se siamo seduti faremo più fatica, se siamo incassati sul divano a guardare la televisione dopo mangiato faremo più fatica, se stiamo facendo uno sforzo sicuramente faremo più fatica. Quando sentiamo questo disagio, che può passare da un semplice disagio a una sensazione proprio di soffocamento, di fame d'aria, fermarsi, non farsi prendere dal panico, perché in realtà noi possiamo stare senza respirare per un po', e controllare il ritmo del nostro respiro, imparare. Arti come lo yoga o il pilates, per chi ha problemi respiratori o per chi ha problemi emotivi che alterano il ritmo del respiro, possono essere molto utili, perché prendiamo consapevolezza di muscoli che magari non sapevamo. Non sapevamo. E poi il respiro, una respirazione guidata ci calma. Allora, sì. 800 24 00 24, se il vostro respiro si fa corto, si spezza, diventa rumoroso o sembra mancare, sì, possiamo chiamarla fame d'aria, professoressa Puggioni? La fame d'aria è proprio quella sensazione per cui mi sento soffocare, però i rumori associati a questa fame d'aria cambiano nettamente da malattia a malattia e possono essere un indice anche per il medico utile per orientarsi verso una diagnosi piuttosto che un'altra. Allora, noi ci fermiamo, andiamo a sentire i mercati e poi ritorniamo insieme con le vostre domande, le vostre richieste, le vostre storie all'800 24 00 24. Un bel respiro, il nostro numero verde, la professoressa Puggioni, voilà. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. I maturandi avranno il respiro bloccato e noi abbiamo pensato di dedicare l'ultima parte della trasmissione proprio alla respirazione. Molti di voi mi stanno scrivendo per sottolineare quello che la nostra esperta, la professoressa Francesca Puggioni, che è in linea con noi. Professoressa, c'è, vero? Sono qui. Ok, ha sottolineato che ci sono delle discipline che permettono di lavorare sul respiro. Lavorando sul respiro si calma anche la mente. E Giovanna ci invita a ricordare che anche il Tai Chi è una delle discipline che pongono particolare attenzione al respiro e al diaframma, e quindi fanno parte di quel gruppo di discipline. La professoressa Puggioni ha citato anche lo yoga, possiamo mettere anche il Pilates, sono diverse, ma naturalmente che ci permettono di prendere consapevolezza e lavorare sulla respirazione, andando così a sentire anche dei muscoli, dei muscoletti di cui non conoscevamo neppure l'esistenza. Sicuramente è un consiglio, professoressa Puggioni, che possiamo dare anche a tutte le persone che si sentono un po' al respiro bloccato dal timore, dalla paura, quando noi dobbiamo d'altronde affrontare una prova che ci mette un po' sotto tensione, la nostra respirazione cambia, abbiamo la sensazione che quasi si blocchi. Perché, sì, professoressa Puggioni? Perché nel momento in cui siamo tesi, la prima cosa che facciamo è ancestralmente prepararci allo scatto, quindi bloccare tutti i muscoli, irrigidirli per potenziarli per poi partire. Questa sensazione però, visto che noi non l'applichiamo sul fisico ma sulla psiche, ha l'unica conseguenza che è quella di bloccare la muscolatura respiratoria e di conseguenza di farci respirare male. Non dimentichiamoci che il cervello funziona essenzialmente attraverso l'ossigeno. Quindi nel momento in cui noi respiriamo male, soprattutto nei momenti di tensione, rischiamo di non avere le idee ben chiare, di non avere una performance cerebrale ottimale, parlo dello studio, del lavoro, certo, del parlare in pubblico, di un momento comunque che ci crea l'ansia, proprio per questo motivo, per cui a volte abbiamo anche vertigini, la sensazione di essere confusi, perché poi per recuperare quello che facciamo è respirare a un ritmo molto più veloce di quello che il nostro organismo dovrebbe fare, e in questo modo incameriamo, immagazziniamo più anidride carbonica, che ha quell'effetto lì, quello di confonderci le idee. Quindi l'ideale sarebbe 12 respiri al minuto, questo ovviamente è un ideale, poi ognuno di noi ha il proprio ritmo personale, ma quello deve essere un po' il nostro obiettivo, respirazioni profonde in cui inspiriamo, quindi buttiamo dentro l'aria dal naso e la buttiamo fuori lentamente dalla bocca, questo per qualche minuto prima di una performance importante, l'esame di maturità piuttosto che un colloquio di lavoro, ci permette di ossigenare bene il cervello e di rendere al massimo. Allora, subito una domanda che arriva da Donata, che ci scrive da Ferrara, e vuole chiederle, professoressa, perché quando prova ad eseguire una respirazione corretta, quindi probabilmente proprio quella che lei ha descritto ora, comincia ad avere capogiri, sensazione di mancanza d'aria e tachicardia. Aggiungo che il mio respiro è di solito leggerissimo e molto superficiale, probabilmente con superficiale Donata intende molto limitato alla parte alta del torace. Professoressa, certo, Puggioni, noi se ci osserviamo guardiamo che raramente si muove la pancia, molto più spesso si muove la parte alta del torace, come se il nostro respiro non arrivasse fino in fondo. Sì. Allora, la pancia non si deve muovere ovviamente in maniera molto forte, perché sennò vuol dire che stiamo usando dei muscoli accessori e siamo in insufficienza respiratoria, quindi il movimento deve essere molto lieve, però si deve vedere il diaframma che si abbassa. Quello di cui parla la nostra ascoltatrice è proprio un massimo afflusso di ossigeno, un'iperventilazione di cui parlavo prima. Abbiamo troppo scambio rispetto al nostro solito, vuol dire che normalmente noi lavoriamo un po' a bassa portata, ci accontentiamo di questi scambi, e quando anidride carbonica e ossigeno invece sono ottimizzati o massimizzati, abbiamo questa sensazione di vertigini. Vuol dire che il ritmo è troppo veloce rispetto a quello che dovrebbe essere, quindi la respirazione non avviene in maniera corretta. Corretta. Abbiamo Giuseppe da Caserta e Luisa da Torino, che sentiamo subito, e poi io vorrei parlare anche di allergie e soprattutto vorrei parlare con la professoressa Puggioni di asma, per rispondere anche ai tanti nostri ascoltatori che ci chiedono di trattare questo tema. Giuseppe, buongiorno da Caserta, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, niente, io una notte mi sono svegliato così all'improvviso, dove mi mancava totalmente il respiro. Ho dovuto fare uno sforzo enorme proprio per cercare di respirare. e dopodiché sono andato al pronto soccorso, insomma dopo la giornata mi sono riuscito a calmare, dice, uno stato d'ansia più che altro, però io da quel momento di tanto in tanto mi manca il respiro e cerco di regolarizzarmelo io, in effetti, pure dopo aver fatto diverse visite anche. Quindi non qualche cosa, Giuseppe ci dice da allora qualche cosa è cambiato. Andiamo a Luisa invece da Torino. Buongiorno Luisa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Io telefonavo perché ho sentito la dottoressa Puggioni e mi si è accesa una lampadina per una situazione che ho in casa. Io ho una nipotina che adesso ha 11 anni che non so se è conseguente a questo, ma ha avuto una bronchiolite molto grave a 5 mesi. Da allora è rimasta molto molto fragile a livello respiratorio. Spesso le viene un respiro veloce, un affanno, quello che lei chiama il muro del respiro proprio. Lo chiama così? La sì, lei lo definisce così. Mia sorella cerca. È geniale, sì, perché è vero, i bambini riescono a trovare delle espressioni pazzesche. Luisa, allora. Ecco, la domanda è questa: spesso lei passa con una goccia di breva e 20 secondi di aerosol. Tanto che io spesso ho parlato con mia sorella dicendole: magari se lei avesse un modo per rilassare il respiro e riuscisse a farlo in maniera autonoma, non avrebbe questo legame con l'aerosol. Allora mi interessava sapere il discorso del Pilates, dello yoga, del Tai Chi, se possono essere utili anche per la sua nipotina. Allora, professoressa, ho messo vicino queste due domande, sembrano due situazioni molto diverse. Una interessa un signore, una persona adulta, nella notte si blocca la respirazione, una grande ansia perché la mancanza di respiro ci agita, e l'altra invece una condizione che è di una ragazzina, adesso ha 11 anni, ha avuto un episodio quando aveva pochi mesi, ma evidentemente non è ancora riuscita a risolvere completamente una situazione, tanto che la descrive con un'espressione secondo me geniale, professoressa Puggioni, ma lascio a lei che ben descrive questa fatica, no? Il muro, qualche cosa che interrompe, da superare, che non si riesce a superare. Professoressa Puggioni. Allora, vorrei fare una premessa. Si parla molto spesso di ansia, si parla molto spesso di far passare i problemi del respiro con la testa, con l'utilizzo della razionalità, con il calmarsi. Il mio consiglio è quello di non lasciare che qualcuno ci dica che stiamo male e non abbiamo problemi respiratori perché siamo ansiosi. Perché è molto difficile capirlo, sfido chiunque a sentir mancare il respiro e rimanere tranquilli, è un circolo purtroppo vizioso, mi manca il respiro, divento ansioso, mi manca il respiro. Il medico non deve avere di base l'idea di avere davanti un paziente ansioso, deve avere davanti una persona che dice mi manca il respiro, ho bisogno di aiuto. Quindi non facciamoci dire queste cose. Allora, e ci la fermiamo, tecnica... scusi, ci fermiamo qui, quindi non giustifichiamo il nostro problema di respirazione solamente come causa l'ansia. Cerchiamo di vederci più chiaro, lo faremo tra poco con la professoressa Puggioni dopo le informazioni sul traffico. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta... Cuore e denari. Ultima parte di Cuore e denari dedicata alla nostra respirazione, alla salute del nostro respiro. Cerchiamo insieme alla professoressa Puggioni di non fare un'autodiagnosi, ma capire di più, raccogliere delle informazioni utili su dei cambiamenti della nostra respirazione, su disagi, potrebbero essere, no, conseguenza dell'ansia, ma la professoressa Puggioni ci manda un avvertimento. Attenzione, non liquidate tutto con un problema di ansia e di stress. Professoressa Puggioni. Sì, e questi due casi sono significativi. Il primo, perché se il primo episodio è avvenuto durante il sonno, è possibile che si tratti ad esempio di una malattia da reflusso gastroesofageo. Quando siamo sdraiati, l'acido gastrico riesce a risalire in maniera più facile, o perlomeno un aerosol di acido gastrico a livello delle prime vie aeree, lo inaliamo e questo ovviamente irrita le vie aeree e può creare un broncospasmo. Quindi indagherei in questo senso, oppure indagherei su una sindrome delle apnee ostruttive del sonno in cui praticamente si ha un collasso delle prime vie aeree, ci blocca il respiro, di solito associato al russamento, ed è necessario quindi effettuare alcuni esami e una visita specialistica pneumologica. Non credo che si tratti di ansia, di certo. Sicuro. Quindi ovviamente, questo, se avvertite, vi riconoscete nel profilo del nostro ascoltatore e quindi avete avuto questa esperienza durante la notte, o durante anche, se non la notte, ma mentre dormivate. Ecco. Passiamo invece alla bambina, alla ragazzina. Sì, alla bimba è sicuramente utile aiutare la piccola a gestire dal punto di vista psicologico il respiro, visto i precedenti, però è anche vero che dalla storia che ho sentito dire adesso è possibile che si tratti di asma bronchiale. Se si ha un beneficio con l'aerosol, si parlava di broncodilatatori a rapida insorgenza d'azione e verosimilmente anche di corticosteroidi nell'aerosol, vuol dire che in questo caso magari si tratta di asma bronchiale e non occorre fare una terapia al bisogno con l'aerosol, anzi è sconsigliato, ma occorre andare in un centro medico specializzato per asma infantile e controllare che non si tratti di questo. Sono esami molto semplici perché sono spirometrie, esami del respiro non invasivo che anche i bimbi riescono a fare molto bene. Ecco, è importante ricevere una diagnosi. Professoressa Puggioni, sottolineo un messaggio che è arrivato ora. Ho passato l'infanzia con asma. Mio padre mi diceva continuamente che era un fattore psicologico. La mamma, per fortuna, era più convinta. Cerchiamo di vederci chiaro anche nei bambini. Perché bisogna credere al proprio paziente. Ecco. Bisogna credere senza avere delle preclusioni, dei pregiudizi. Una persona che sente mancare il respiro continuamente, che si sente soffocare, che sente quel muro e non riesce a fare un respiro profondo, vive a metà, quindi è normale che sia ansioso. Sfido chiunque a soffocare continuamente e non essere ansiosa. Non diamo queste etichette alle persone, perché poi sono persone che nel quotidiano hanno magari grandi responsabilità, grandi pesi da portare sulle spalle, come madri, come studi, come lavoro. Quindi non scarichiamo tutto sull'ansia e basta. Cerchiamo una diagnosi eventualmente di esclusione. Una volta che abbiamo fatto tutti gli esami, siamo sicuri che non c'è una malattia, allora forse potremo affrontare il discorso, può essere uno stato ansioso, ma non la prima diagnosi. Allora, torniamo a parlare di asma. Spesso non viene diagnosticata e molto spesso anche la persona che ne soffre non segue, anche se riceve diagnosi, con scrupolo e costanza la terapia. Professoressa Puggioni, questo è un aspetto importante e da sottolineare, perché un po' c'è questa, no? Molto, è importante che le persone sappiano che nel trattamento e nella gestione dell'asma sono cambiate tante cose. E quello che un tempo veniva limitato, ad esempio l'attività sportiva, oggi invece viene raccomandato, diventa anche quasi parte del percorso terapeutico. Assolutamente, è fondamentale fare diagnosi di asma non per mettere un'etichetta medica e fare del virtuosismo, ma per ricevere le cure giuste e per avere davanti a noi degli anni di vita sana, perché altrimenti il nostro corpo si vendica se noi lo trattiamo male all'inizio. Purtroppo chi soffre di asma ha un andamento spesso collegato agli allergeni, quindi quando ci sono cariche allergeniche molto forti si sta male, in altri periodi si sta bene, e quindi che cosa succede? Che appena sto un filo meglio interrompo la terapia, oppure ho paura degli effetti collaterali dei farmaci. In realtà adesso ci sono dei farmaci che con pochissimi microgrammi di antinfiammatorio, che è cortisone, che rimane localizzato nei polmoni, non va nel sangue, quindi non dà effetti collaterali, ci permettono un controllo perfetto della malattia. I farmaci funzionano, solo quelli che si prendono però. Certo. E i rischi che si corrono quando si ha un asma non controllato è quello di creare un rimodellamento delle vie aeree, andare incontro a un'insufficienza respiratoria cronica, magari a 50-60 anni, avere delle conseguenze devastanti sul nostro organismo, perché gli organi invecchiano in maniera esponenziale se non ricevono il giusto apporto di ossigeno. In chiusura ricordiamo, lo diciamo spesso per quello che mangiamo, siamo quello che mangiamo, ma professoressa Puggioni, possiamo dire anche siamo quello che respiriamo, il nostro respiro, la salute del nostro respiro è condizionata anche dall'ambiente in cui viviamo e anche da come viviamo, perché anche il nostro stile di vita può avere una funzione protettiva o al contrario diventare un fattore predisponente o di rischio, quindi limitare o minacciare seriamente la salute dell'apparato respiratorio. Penso all'aria che respiriamo. l'aria inquinata nelle nostre città, nelle nostre case, ma penso anche al fumo di sigaretta, anche quello passivo di seconda e terza mano, e quindi insomma i nemici del nostro respiro sono tanti, cerchiamo di difenderci, possibile. Non è sempre possibile, ma neanche impossibile. Ovviamente è facile difendersi dal fumo di sigaretta stando lontano da chi fuma o non fumando, questo è un po' più semplice. Per chi deve per forza lavorare in città molto inquinati, è utilissimo nel weekend programmare dei soggiorni in altre località. Se anche non si può andare per forza al mare o in montagna, basta una scampagnata, basta stare in un parco, quindi cercare di evitare il più possibile di avere a contatto con l'inquinamento. Ecco, servono anche poche ore passate fuori dalla città, fuori porta, per in qualche modo dare un pochino di sollievo, di benessere. Sì. Io vedo spesso delle persone, ad esempio, che fanno esercizio fisico e corrono in mezzo alle macchine in centro città. Questa è una cosa da evitare assolutamente, perché noi iperventiliamo, respiriamo con la bocca, quindi non filtriamo con il naso quello che respiriamo, per cui se si va a correre, per favore, lontano dalle zone trafficate dalle macchine, cerchiamo un posto in campagna, cerchiamo un parco, cerchiamo posti poco trafficati, perché quello è deleterio per il nostro apparato respiratorio. Il fumo l'abbiamo detto, la diagnosi di asma, se sentiamo un respiro che si fa corto, fastidioso, il famoso sibilo, il rantolo, ecco, non aspettiamo, c'è una diagnosi che potrebbe, con naturalmente l'adeguata terapia, dare proprio una svolta un po' alla nostra vita. È un investimento che si fa per il futuro, perché altrimenti a 40, 50, 60 anni avremo una qualità di vita pessima, in cui non riusciremo a fare banalmente una vita sociale o lavorativa pagante, perché non riusciremo magari a fare un piano di scale o a correre o a parlare velocemente. La diagnosi di asma bronchiale è molto semplice, non è invasiva, si fa con degli apparecchi in cui si soffia. Quindi basta un soffio, per avere chiara la situazione, per salvare il respiro. Professoressa Pugioni, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi torniamo domani, torna anche Deborah. Intanto buona giornata a tutti, da Nicoletta.